sta per cominciare La forma dell'acqua. Gli ascoltatori sono pregati di prendere posto. La forma dell'acqua. Musica e intrattenimento su Radio Città Fujiko. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening, a recording for Blue Note Records. Buongiorno, ben ritrovati, 103.1 di Radio Città Fujiko per questo venerdì 13 settembre. Estate quasi, dico quasi finita, però noi siamo dei romantici solari che amiamo l'emozione, il ricordo, e quindi ci piace ricordare che, come promesso un mese fa, siamo tornati, quello dello Special Summer. Siamo la coppia di Lunghi e Nella forma dell'acqua del venerdì, ai microfoni William Piana e Elisa Iacobucci. Ciao Willy, ben ritrovati, siamo ancora qui, esatto, perché finché non arriva il 21 settembre noi vogliamo l'estate. E anche se il clima ci ricorda che sta un po' finendo, noi ci possiamo coprire con un bel mantello color blu, come una nota etichetta discografica, giusto? Sì, sì, siamo tornati in questo mese che, come hai detto giustamente, è ancora caldo ma non troppo, e ci ispiriamo alle tinte sfumate, basse maree, gli ombrelloni che si chiudono, le ombre più lunghe, insomma una nostalgia, un momento in blu. E quale sarà questa colonna sonora? Ah, non può essere che la Blue Note Records. Oh mamma mia, che difficoltà, il jazz a metà mattina. Sì, però noi siamo coraggiosi, pieni di passione. Infatti, quando pensi alla Blue Note, pensi proprio al periodo d'oro del jazz moderno, ai suoi protagonisti, da Miles Davis al genio obliquo di Thelonious Monk e altri grandi come John Coltrane e Bud Powell. Insomma, tanti ci accompagneranno in queste due ore fantastiche. E anche noi, come una buona coppia, diciamo appassionata, abbiamo qualcosa in comune con chi creò un po' la Blue Note. Eh sì, la passione, il coraggio. La passione e il coraggio, perché infatti a iniziare il tutto nel 1939 furono insieme Alfred Lion e Francis Wolff, due tedeschi ebrei che, scappati un po' al limite, quasi dicono che è stata una delle ultime navi proprio ad accompagnare in America coloro che stavano scappando, perché appunto ebrei e quindi perseguitati, riuscirono ad andare a New York, e la loro passione, perché in realtà di musica non è che ne capissero poi così tanto, riuscirono con un buon senso estetico e un buon orecchio, questo lo possiamo dire, assolutamente, a far incidere i grandi della musica del jazz, che hanno fatto veramente la storia. E nel 1939 si parla di jazz, una citazione al bebop, assolutamente bisogna farla, più che una citazione, un ascolto. Lui è il braccio, e The Bird è Charlie Parker, e l'altro è la mente, Dizzy Gillespie. Attenti a quei due, quindi ci ascoltiamo Sal Peanuts, è una registrazione del 1947, abbiamo appena cominciato, ben arrivati, siamo sbarcati alla grande mela. Sal Peanuts, Charlie Parker, Dizzy Gillespie, buon ascolto e a fra poco con lo Special Summer. Sal Peanuts. Sal Peanuts. We'll be right back. Sono ritmi sincopati, sono ritmi nuovi e qualcosa di interessante. Una registrazione live del 1947, questa di Dizzy Gillespie e il grandissimo Charlie Parker, presentata da una terza voce che potrebbe essere in studio con noi, da Pee Wee Marquette. Ah sì, quello era un omino piccino piccino, ma tanto tanto poteva abbaiare quanto quei cagnolini, sei tipo i chihuahua che sono piccoli ma si fanno sentire. Con lo stesso momento potevi ascoltare questa voce che sembrava quasi un bambino, e in realtà è proprio quella che avete sentito all'inizio della nostra trasmissione, ed era la voce proprio di Pee Wee Marquette, che riusciva in qualche modo, nella sua particolarità, a rendere uniche le serate di New York, presentando i grandi artisti come appunto Gillespie e Parker. Al Birdland, il locale storico, chiamato così proprio in onore del grandissimo alto sassofonista. Particolare anche il bebop, ti posso dire che Sal Peanuts, ho fatto degli studi, l'origine del nome è non si sa quale. Ah ok, perfetto. No, non è proprio così, infatti, ci posso dare un'interpretazione, dimmi. Ti interrompo, è che diciamo così è un periodo di rivolta, è un periodo di rivoluzione, e quindi potrebbe essere, per così dire, una capacità di nonsense. Ah beh, io pensavo tipo mangiatevi le noccioline e godetevi lo spettacolo. Okay. Una sorta di popcorn. Esatto, quindi. Invece sì, anche perché appunto il livello storico di quel periodo era veramente molto molto teso, sì. Anzi, era di moda molto lo swing, le orchestre, ma erano più che altro i bianchi che prendevano in qualche modo questa musicalità e la rendevano popolare. Però giustamente i neri, già che erano abbastanza presi abbastonate, perché non era proprio il periodo più allegro, già la guerra c'era, in più appunto la segregazione razziale, in qualche modo volevano riappropriarsi almeno della loro musica. Dicevano: ci avete tolto tutto, almeno le nostre note lasciatecele. Il bebop non poteva che rappresentare proprio questo. Tra l'altro, l'origine invece del nome del bebop, coniato si dice forse da Dizzy Gillespie, è un chiaro segnale per stoppare l'improvvisazione di un solista. Insomma, bebop era così un coniato, un termine improvvisato come l'improvvisazione che faceva da padrone, e per fermare si usava queste facili due frasi. Oppure potrebbe essere anche, dicevi, il rumore del manganello. Il rumore del manganello che cadeva appunto sulle teste di questi poveri malcapitati. Disgraziati, sì. Esatto. Fondamentalmente è la risposta afroamericana alle grandi orchestre, prevalentemente bianche, ma con la Blue Note il bebop sarà, diciamo così, di moda in un periodo in cui sarà già facilmente registrato. 1939, arriviamo quasi all'inizio degli anni 50, in mezzo c'è la guerra, tanto del bebop era già stato registrato, sarà un piccolo nucleo, perché la trasformazione improvvisa, e saranno gli anni d'oro per la Blue Note Record, sarà per un'evoluzione di questo genere, cioè l'hard bop. Eh sì, è proprio una vera e propria evoluzione, ma in realtà l'evoluzione è anche proprio dentro di loro, perché non vogliono in qualche modo essere passivi a questa situazione storica, ma vogliono la ribellione. E quale modo migliore se non inserirlo a livello musicale, esprimere proprio ciò che hai dentro attraverso la musica, e quindi in un certo senso eliminano anche quella difficoltà di comprensione musicale, perché volevano arrivasse anche a più persone, e quindi cambia un po' anche proprio il ritmo, diventa anche un po' più veloce, un po' più frenetico, e ritorna quel botta e risposta tra i vari musicisti, proprio per richiamare il loro dialogo un po' più vicino, un po' più intenso alle loro origini, chiaramente. Esatto. E da questo disco del 1957, a cavallo del 1958, si può dire ufficialmente sdoganato. Due grandi artisti, Julian Cannonball Adderley, di cui parleremo più tardi, e Miles Davis, di cui non bastano certamente due ore di trasmissione. Miles Davis farà anche questa rivoluzione, e pensate un po', addirittura sarà sideman, sarà per così dire panchinaro in questo disco Something Else 1957. È bello ascoltare all'inizio l'uno contro uno che vi è fra i due musicisti, il botta e risposta. Quindi Something Else, Julian Cannonball Adderley, Miles Davis e tanti altri, e buon ascolto, e a fra poco con lo Special Summer. We'll be right back. Torniamo in diretta per i vostri sms allo Special Summer con William Piana, Elisa Iacobucci, Pee Wee Marquette, Cannonball Adderley, Miles Davis, John Coltrane, Ora Silver e Joe Anderson. Basta che già è piccolo, qua non ci stiamo. E poi questi sono omoni, soprattutto, esatto, i Cannonball. Soprattutto Cannon, infatti ho appena pubblicato una foto per chi volesse andare sulla nostra pagina e vedere le immagini che sto inserendo. Cannonball infatti era proprio una bella palla di cannone, diciamo. Un cannibale, perché infatti deriva proprio dal suo primo soprannome Cannibale, proprio perché gli piaceva mangiare. Insomma, non abbiamo testimonianze di questa cosa, però dalla foto che ho messo si sta bevendo un bel caffè, secondo me lascia anche trasparire quello che si era mangiato prima, diciamo. Beato lui, anche noi abbiamo questo brutto vizio, che poi così brutto non è. Com'è bello come vizio ascoltare questa bellissima musica su Radio Città Fujiko. Something Else, siamo nel 1957-1958, le orchestre si riducono, daranno vita a quintetti, a sestetti, come in questo caso con il Sideman d'eccezione. Sarà l'unico disco in cui sarà Sideman, cioè per così dire gregario, Miles Davis alla tromba, ovviamente Cannonball al sax alto, Hank Jones al piano, Sam Jones al basso e, udite udite, Art Blakey alla batteria. Art Blakey, di cui parleremo più tardi, fondatore dei Jazz Messengers, uno fra i più grandi batteristi di tutti i tempi. Julian Cannonball Adderley, oltre a essere un grande mangione, sapeva utilizzare perfettamente il blues all'interno della struttura sincopata del jazz, ed è questo anche l'art bop, cioè riuscire a mettere insieme scritture afroamericane all'interno di un riff già scritto e improvvisato. Affermazione bellissima di Julian Cannonball Adderley a un saxofonista più giovane che gli confida: ogni volta che ascolto Coleman Hawkins mi viene il nervoso. E lui risponde: beh, a tutti noi viene il nervoso quando ascoltiamo Coleman Hawkins. Esatto, quindi, perché anche superarlo era davvero difficile. Davvero difficile. Uno dei padri fondatori del saxofono all'interno della scrittura jazz. Andiamo ancora più indietro nel tempo, ma questa è tutta un'altra storia. Per adesso la storia della Blue Note Records. La Blue Note Records, 47esima strada ovest a New York, fondata dai due Alfred Lion e Francis Wolff, due immigrati tedeschi, come diceva in precedenza Elisa, uniti da una grande passione per la musica e per la fotografia. Soprattutto per l'estetica, grazie a Francis Wolff, perché era proprio un fotografo pubblicitario. Infatti, se ci sono tre grandi rivoluzioni della Blue Note, all'interno della musica abbiamo anche il design. Infatti, sì, durante le sessioni andava anche in braccio ai musicisti pur di poter scattare, pur di poter prendere questa sigaretta che fluttuava nell'aria, e questi suoni lasciati proprio dalla luce delle trombe che brillavano nell'oscurità. Rigorosamente in bianco e nero, ovviamente venivano utilizzate per le copertine dell'album, anche se inizialmente dicevano: ma scusami, cosa c'è di meglio di una bella donna stampata in copertina? E lui disse: no, non è giusto, bisogna far vedere questi musicisti cosa hanno negli occhi, perché se creano una musica del genere c'è sempre un motivo. Già avanti anche per quanto riguarda l'utilizzo del corpo femminile, perché loro dicevano: non strumentalizziamolo, strumentalizziamo, esatto, gli strumenti in questo caso. Hai citato le copertine, ne ho una bellissima tra le mani, del disco che del movimento art bop a me è più cuore, che è più nel cuore mi sta. Lui è Horace Silver, grandissimo pianista storico. Abbiamo parlato di blues all'interno della scrittura art bop, adesso ascoltiamo il funky. Sulla copertina vi presenterò poi in diretta, quando rientriamo dopo il brano, quello che rappresenta e la storia che contiene. che non è il funky che ci aspettiamo di James Brown, dei Funkadelic, dei Parliament, è ovvio, siamo almeno 30 anni prima, però qualcosa nella scrittura di più ritmato e nello stesso tempo di piacevolmente ripetuto c'era e come. Questo è un quintetto storico che è degno di essere citato: alla tromba il grande Blue Mitchell, Horace Silver al piano, Gene Taylor al basso, Ray Brooks alla batteria, lo stesso Joe Henderson al sax tenore. Siamo in piena epoca hard bop 1963, un jazz che poi è adatto per ogni occasione, non è così difficile, dai. No, questo diciamo che ha delle influenze un po' funky, però anche un po' più agevolate all'orecchio un po' di tutti. Sì. Horace Silver aveva anche delle influenze latinoamericane. Brava. Infatti venne proprio scoperto da Stan Getz, che vide questo grande musicista e disse: tu vieni con me. Sono accaparrò. Sì. E ovviamente iniziando il suo esordio insieme ai Jazz Messenger, che hanno appunto fatto la storia insieme ad Art Blakey, sono riusciti in qualche modo ad appropriarsi del palcoscenico del Mintons, e sono riusciti appunto attraverso questi dischi a fare la storia dell'art bop, la storia dell'art bops, che in un certo senso doveva essere un po' anche pungente, un po' graffiante, questo suono che in qualche modo doveva dare il desiderio a questi uomini di doversi riaffermare. Pensa che il sottotitolo, addirittura ci faccio caso adesso, sarà perché sto perdendo un po' di diottrie, Cantica par me o pa. Proprio c'è anche l'espressione latina. The Horace Silver Quintet, Blue Note Records. Elisa sta pubblicando sulla pagina dell'evento queste bellissime copertine, una storia importante anche dietro questa copertina, dove lui semplicemente, Song for My Father, mise la foto di suo padre. Esatto, l'atteggiamento infatti è rilassato, in riva al fiume con il suo sigaro. Meglio di così, proprio perché il jazz è adatto a tutto. Esatto, al relax. E soprattutto ha una pace interiore che sì, non può che essere trasmessa da queste illustrazioni che ti danno proprio la, che bello, la serenità. Serenità delle vacanze. Ormai delle vacanze sono... che sono finite. Sì, cioè, pochi fortunati. Anzi, se volete mandarci un bel messaggio e dirci dove siete stati di bello quest'estate, così ci fate fare un po' di invidia, dicendo mannaggia voi. 333-180-9494 per i vostri sms, per vivere il jazz più bello della Blue Note Records, qui all'interno della Special Summer, dentro la forma dell'acqua. Noi proseguiamo prima dello stacco pubblicitario presentando i Jazz Messengers. I Jazz Messengers insieme ad Art Blakey, scusate. Brava. Scusate, e diciamo che hanno in qualche modo fatto davvero la storia. È un brano che in un certo senso è proprio il tatuaggio della musica jazz, è Moanin. Sì. È stata veramente eseguita dai più grandi, da Charles Mingus, da tutti, da Louis Armstrong, da veramente da tutti. Cantata da Sarah Vaughan. Esatto, da Sarah Vaughan, un'altra grandissima cantante. E diciamo che grazie al batterista esplosivo appunto in questione, e anche lui aveva un'influenza molto africana, infatti quando venne picchiato dalla polizia, morì la moglie, insomma aveva bisogno di staccare, andò in Africa per riscoprire le sue origini, e qui si sente l'influenza dello stile afroamericano della batteria, e possiamo ascoltarlo in questo brano. A più tardi con la pubblicità, dopo la pubblicità. Quale brano migliore se non quello di On the Sunny Side of the Street per capire le varietà di questo strumento del Hammond, per capire veramente quante sonorità poteva creare. E questa canzone, questo brano in realtà era particolare perché era stato scritto inizialmente per Lew Leslie, cioè per uno spettacolo di Broadway, ma è un altro esempio in cui lo spettacolo, diciamo che è stato proprio un flop, ma è sopravvissuta solo la canzone. Infatti dopo neanche 90 spettacoli chiusero, e il fallimento dello show però non ha gettato nell'ombra questo successo, che ha un ulteriore e importante significato, perché è il lato soleggiato della strada, perché appunto negli anni 30 i neri non potevano nemmeno passeggiare all'ombra, ma anzi era dedicata proprio a loro la parte più soleggiata, perché dovevano camminare col caldo e sudando, con l'afa. Però ovviamente stavano al sole, quindi il sole è la vita, e bisogna vedere in qualche modo il lato positivo anche, dove in realtà si fa fatica a vederlo. Assolutamente sì, hai ragione, l'emozione personale è assolutamente intensa, in quanto la parte soleggiata della strada da queste sonorità fa sì che la fantasia e la creatività diventi sempre più feconda, diventi sempre più produttiva. On the Sunny Side of the Street, la parte soleggiata dove nascevano le cose più belle. Infatti questo brano ricorda, per così dire, una nostalgia, assolutamente, ma ricorda anche una voglia, per così dire, scanzonata e spensierata, però sempre impegnata e di rivincita. Jimmy Smith, l'incredibile per le sue capacità all'organo Hammond B3, qui accompagnato da Stanley Turrentine, grandissimo sax tenore, che insieme a Lou Donaldson fu uno degli artefici del groove, cioè quella commistione tra jazz, funky e soul, che è stato grande per gli anni 70. Invece ho nominato Kenny Barrell, chitarrista, anche lui capace di improvvisazioni, ma nello stesso tempo di una capacità di facilità d'ascolto incredibile. Lo andiamo a ascoltare qui alla Forma dell'Acqua nella speciale estate con Cheetah, The Best of Kenny Barrell. Thank you. In diretta sui 103.1 accompagna questa mia corsa la chitarra di Kenny Barrell, perché devo dirti Elisa che avevo Herbie Hancock in macchina. Ma infatti guarda, proprio lui è qui con noi. Meno male che siamo alti, abbiamo le gambe lunghe che riusciamo a correre in 3 secondi, perché sennò sarebbe stato abbastanza complicato, si sarebbe creato il buco, mentre invece nel groove il vuoto e il buco speriamo di non farlo mai. Certo che questa musica dà una continuità, è ciclica e quindi assolutamente facilmente ascoltabile, seppur con delle caratteristiche di improvvisazione molto importanti. Allora, stiamo facendo a grandi passi, più o meno quelli con cui ho fatto le scale. Esatto. E si sente chiaramente. Ma abbiamo il sostegno, perché abbiamo sia Marina da Bologna che Chiara da Torino che ci danno un po' di sostegno in questa giornata. Grazie, noi li prendiamo tutti. Ma capite che insomma è finita l'estate, siamo ritornati, è chiaro che ci vuole un attimino anche di suspense per reggere, no? Per creare un po' più di questo bollicine. Questo impatto incredibile sui 103.1 di Radio Città Fujiko col grande jazz della Blue Note. Oh, stiamo arrivando ai giorni nostri, eh? Sì, sì, quasi quasi ci stiamo avvicinando. Eh sì, perché questo grande camaleonte, Herbie Hancock, è stato importante per tantissimi passaggi. Unico difetto di questo artista, se difetto si può chiamare, ha voluto prendere un po' da tutte le parti. Beh sì, infatti proprio camaleonte per questo, perché non ha una vera etichetta che possiamo dargli, è più... diciamo un camaleonte vero e proprio. Eh sì, un trasformista. Quindi fra jazz modale addirittura, questo genere assolutamente molto molto strano e molto particolare, più elettronica, la fusion, addirittura la disco music, tuttora in attività. Un enfant prodige che purtroppo è rimasto tale proprio. Ma infatti già a 7 anni inizia a studiare il pianoforte, quindi anche lui un altro piccolo bambino prodigio che riesce in qualche modo, arrivando a New York, a incontrarsi con la Blue Note, che gli offre subito un contratto perché giustamente hanno l'occhio lungo e vedono bene. Riesce in qualche modo a già nel 62 a fare il suo primo album, Taking Off, che diventa ovviamente un grande successo commerciale. Eh sì, e pensa che è stato registrato dal grandissimo Rudy Van Gelder. Esatto. Di cui dopo magari parliamo. Esatto. Adesso ascoltiamo Watermelon Man di Herbie Hancock, ormai una standard. Poi la pubblicità e poi torniamo in diretta con La Forma dell'Acqua con William e Elisa. in family. Saw my baby lying there. He was stretched out on a long white table. So sweet, so cold, so fair. Let him go, let him go, God bless him. Wherever he may be, he can look this whole wide world over, and he'll never find a sweet girl like me. When he died, I dressed him in straight lace shoes, a box back coat and a Stetson hat. I put a $20 gold piece on his watch chain, so the boys will know that he died standing pat. Dressed him in straight lace shoes, a box back coat and a Stetson hat. I put a $20 gold piece on his watch chain, so that the boys know he died standing at. Hey, let him go, let him go, God bless him. Wherever he may be, he can look this way. Mezzogiorno e 7 minuti, torniamo in diretta, siamo William Piana e Elisa Iacobucci per lo Special Summer all'interno della Forma dell'Acqua per questo venerdì 13 settembre sui 103.1 di Radio Città Fujiko. Vigilia di weekend, quindi siamo pronti, vedo anche dietro di te il sole, quindi chissà. Ancora possiamo sperare in qualche giornata abbastanza positiva e decente. Decente, ecco, questo è il termine più azzeccato. Sicuramente qualcosa di più è la voce di Cassandra Wilson, e sicuramente per un weekend ideale da colonna sonora è perfetto. Cassandra Wilson, quindi siamo già arrivati a ridosso dei nostri giorni, anche se la sua attività inizia dagli anni 70. Il percorso è contrario a quello solito per una musicista. Inizia con l'avanguardia più intensa, con gli M-Bass di Steve Coleman, fino ad arrivare alle sue origini, quindi esattamente alla rovescia. In questo caso abbiamo ascoltato St. James Infirmary, che è una canzone popolare tra il blues, proprio quello più verace, quello nato nel Delta, perché lei è originaria del Mississippi. Cassandra Wilson fa l'altro ha avuto come manager un personaggio molto particolare, il suo muratore. Ah beh, giusto, infatti quando il muratore andò a casa sua a fare i lavori sentiva che intanto canticchiava e le propose: ma perché questa cosa invece di mantenerla in queste quattro mura non proviamo a esportarla in tutto il mondo? Le abbattiamo queste mura e invece di fare il muratore faccio il tuo produttore e vediamo cosa scappa fuori. Beh, abbiamo visto che una carriera di 30 anni, due Grammy alle spalle, ha vinto il titolo di American Best Singer e voglio dire, ha fatto bene il muratore. giusto per cambiare lavoro. Pista giusto. Guarda, io ho fatto l'elettricista per 25 anni. Non ti è capitata questa? Mai. Ho ristrutturato un sacco di appartamenti, ma la voce di Cassandra Wilson io non l'ho mai sentita, se non su questi bellissimi dischi della Blue Note. Torniamo però a questa etichetta discografica importantissima. Siamo partiti col bebop che lei ha appena sfiorato, ma di cui è stata partecipe, tutto il percorso all'interno dell'hard bop, i personaggi che hanno gravitato intorno all'etichetta della Noto Blu sono stati praticamente i più famosi della scena jazz degli anni 60, e quindi siamo arrivati ai giorni nostri. E perché rimane famosa anche ai giorni nostri, dopo un piccolo periodo di buio intorno agli anni 80? Beh, del resto gli 80 erano anni bui. Negli anni 70 diventa, per così dire, si rilancia, arriva ai giorni nostri con molta importanza, perché alle persone più giovani, tra cui il sottoscritto, con delle ristampe bellissime riesce a riproporre la musica di una volta. Verrà assorbita da una major, rimarrà semplicemente il marchio che verrà apportato sui dischi EMI Universal, quelli più vicini a un jazz di facile ascolto, perché di questo che si tratta all'interno della Blue Note, cioè quello della diffusione del jazz, già musica molto di nicchia. No, non diventa e non rimane di nicchia, ma sarà qualcosa che si espande per tutti quanti. Cassandra Wilson ha i giorni nostri un'infinità di album alle spalle, cantante degli M-Bass, dalla carriera che ha citato anche Elisa in precedenza, rimane assolutamente, secondo me, la migliore cantante jazz vivente. Nulla però toglie che anche la grandissima Diane Reeves porterà un contributo importantissimo per il jazz più mainstream. In questo caso andiamo a ascoltare Smiley. Buon ascolto e a fra poco su Radio Città Fujiko. Bye. Eccoci qua di ritorno in diretta, lasciando la splendida voce di Diane Reeves, compagno di Joe Duke, scomparso di recente, fra l'altro grandissimo produttore. 12-14 minuti, la storia della Blue Note e i giorni nostri. Oltre alle ristampe, ricordo poi che ha editato anche Saint Germain, il DJ. Il DJ famoso. Sì, quello che fece questo disco incredibilmente commerciale, che sdoganò il famoso French Touch, si chiamava, il tocco francese. E anche gli Astree. La Astree, infatti, se avete notato la nostra sigla iniziale, dopo la vocina di quel fantastico bambino che non era altro che Pee Wee Marquette, abbiamo ascoltato le sonorità degli Astree, cioè un gruppo nato nel 91 e in qualche modo è riuscito a inserirsi all'interno della Blue Note e farsi appunto propri i loop antichi che hanno fatto la storia, e li hanno in qualche modo riutilizzati per fare un nuovo stile un po' più R&B, un po' più pop, con queste trombe che ricordavano ovviamente la nascita dell'etichetta, e in qualche modo però hanno avuto il loro successo. In realtà diciamo che la canzone più famosa è proprio quella che abbiamo ascoltato, cioè Cantaloupe Island di Herbie Hancock. Lo sapevo che eri preparata, t'ho solo anticipato così, diciamo, per fare un po' il saputello come mio solito, per essere il solito spocchioso William qui sui 103.1. Ristampe importantissime. Ristampe, perché la Blue Note andrà a saccheggiare il catalogo e riuscirà a prendere importantissimi spunti. Spunti che ho qui per le mani da compilation come Blue Juice, come Blue and Groovy, Blue Latin, che sono riuscite a portare alla luce anche per le persone più giovani tutte queste sonorità. Con piacere all'ascolto. Sentite un po' Sitting on the Dock of the Bay, fatta da Peggy Lee. L'eleganza di Peggy Lee, nome d'arte di realtà Norma Ekstrom. In realtà è stata veramente non solo una cantante, ma un'attrice di canzoni, ha davvero avuto tanti cavalli di battaglia. Speaker radiofonica, sì. The Girl from Ipanema, la cover di Fever, What Don't You Do Right, rifatta anche dalla formosissima Jessica Rabbit nel famosissimo film. È vero, dico, ma dove l'ho sentita questa? E a proposito di film, possiamo già annunciare anche venerdì prossimo, sì, il cinema. Prossimo faremo un un film interno. Recitiamo io e te. Sì, sì, io e William recitiamo in un film e canteremo anche, musical faremo. No, volevamo in qualche modo creare una puntata che ripercorresse le canzoni, le colonne sonore più belle della storia del cinema. Eh sì, Cinemood sarà il titolo di prossimo venerdì 15, se addio, il prossimo venerdì, quindi sarà il 20. Il 20, siamo esatto. Ancora in estate. Siamo ancora in estate, quindi possiamo ancora chiamare Special Summer. Per un pelo, meno male, venerdì 20 settembre, giorno. Il Cinemood sarà il 103.1, le più belle original soundtrack e le più belle canzoni per il cinema, selezionate fra Blaxploitation, John Barry, Harry Mancini, lo stesso Morricone, basta, sennò poi vi diciamo troppo. E già quindi con il jazz abbiamo portato un pochino di raffinatezza, ma certo non di troppo facile ascolto, cercheremo invece con il cinema di portare qualcosa di più rilassato. Sì, insomma, abbiamo avuto coraggio, però insomma, come ci insegnano i nostri cari berlinesi che si sono un po' affondati in questa Blue Note, abbiamo detto vabbè, se anche loro ce l'hanno fatta, anche noi possiamo fare una puntata sulla bisogna soffrire. Soffriamo un po', però bisogna soffrire, non c'è niente da fare. A proposito di Cinemood e compilation della Blue Note, ne ha fatta una anche per il cinema, Blue Movie si chiamava, e qui abbiamo Nancy Wilson, un'altra grandissima cantante che ci fa ascoltare. Oh, qui Moon River. Mamma, qui ci vuole il fazzoletto, che bella che è sta colonna sonora di colazione da Tiffany. Più mossa, un po' più bosseggiante, con qualcosa di samba, però il romanticismo della grande Nancy Wilson rimane. Nancy Wilson per Blue Note Records ha inciso anche lei tantissimi dischi, qui Out of Sight uno dei principali. 70 album. Pensa un po', chi l'avrebbe mai detto? 70 album alle spalle e 3 Grammy Awards. Ma anche lei, noi abbiamo la statistica che non gliele vuoi dare. Non gliele vuoi dare, scusa. Beh, c'è chi ne ha vinti di più, però onore al merito, Poi veniva soprannominata anche Sweet Nancy, The Baby, Fancy Nancy, era anche uno zuccherino, quindi come facevi a non dare il Grammy? Per la dolcezza. Esatto. E invece non abbiamo detto, tornando a Peggy Lee, che Frank Sinatra la riteneva la miglior cantante vivente. Sì, ma infatti io l'adoro, di un'eleganza unica davvero, riusciva a dare la sua personalissima interpretazione ad ogni brano che ovviamente lei rifaceva in un modo unico. E la Blue Note negli anni 70 è riportata qui in questa bellissima compilation Blue Note Got Soul. Eh sì, perché sono gli anni del soul, gli anni 70, e può mancare questa etichetta? Assolutamente no. Quindi Can't Hide Love di Carmen McRae. My love, and you can't deny You know it's true, but you try to hide. You turn down love like it's really bad. So you can fool a few. Voci femminili non ne avevo ancora messe e non mi hai sgridato. Ma infatti guarda, lo volevo dire che ogni volta che facciamo la playlist, guarda caso, le donne vengono sempre a scivolare in fondo. Ma in realtà è dopo... perché gli ultimi saranno i primi, quindi esatto, è per dare più importanza. Brava, grazie, hai trovato una scappatoia perfetta, guarda, sempre la risposta pronta. Elisa Iacobucci, 12:28 minuti, proseguiamo con le voci femminili. C'è una delle tue preferite adesso, a sorpresa, pensa un po'. Oh, rullo di tamburi alla Marlene. So, proprio lei, esatto. Feel like making love. Wow. Winter turned to spring. Walking on in the dark. soft and low. And my feelings start to show. Un gol, Elisa, ci siamo impossessati della radio. Ah sì, tanto voglio dire, il GR questa volta salta, toccherete ascoltarci per un'altra mezz'ora. Siamo qui negli studi di via Giambologna, 4 alle 12.33 minuti, sintonizzati su Radio Città Fujiko per questo venerdì 13 settembre alla Forma dell'Acqua con William Piana e Elisa Iacobucci, che ormai vi fanno anche l'aperitivo. Ah sì, sì, assolutamente, preparate, scaldate l'acqua e butta la radio. E butta la pasta, che tra un po' arriviamo. Beh, ancora una mezz'ora, poco meno, in compagnia di queste splendide note blu. Marlena So, scusate, sì. No, ho sempre una defiance quando devo dire questi nomi, sarà l'emozione che mi danno. Beh, queste note. Ti vedo molto emozionata, infatti. Sì, forse vedo. La fame, non lo so. Però voglio dire, queste grandissime cantanti che abbiamo ascoltato alla fine di questa bellissima playlist spesso si sono rifatte anche ispirate a Billie Holiday, che tra l'altro è stata in qualche modo allontanata, cioè respinta, non volendo, credo, dalla Blue Note, perché sì, inizialmente come calamita per attirare gli artisti aveva proprio la capacità di trovare un modo nuovo di registrare, cioè in piena notte. Infatti chiamava gli artisti che magari finivano le loro esibizioni e alle 4 della mattina andavano negli studi di registrazione della Blue Note per dare lo spirito libero alla loro musica, perché appunto avevano davvero carta bianca. E quindi piano piano si sparge la voce e inizia ad esserci davvero la la fila al di fuori della Blue Note, e c'è anche Billie Holiday che non riesce ad entrare perché non era tanto conosciuta o perché davvero ormai lo spazio era finito e quindi dovette rinunciare purtroppo a esibirsi anche all'interno della loro etichetta. Beh, ci ha perso l'etichetta assolutamente. In questo caso sì. Bene, tante donne nella playlist in questa parte finale. Beh, torniamo però alle voci maschili. Questo è il grandissimo Bobby Womack. Il brano è dei Mamas and Papas e si chiama California Dreaming. All the leaves are brown and the sky is gray. I went for a walk on a winter's day. Al 3 3 3 1 8 0 9 4 9 4, arriva puntuale l'SMS di Marcello, grazie. Ci dice Marcello: ragazzi, vi ringrazio per questo bellissimo viaggio sulle note del grande jazz, ben venga il TG più tardi. Oddio, vabbè, questo poi riprenderà ovviamente, non è che è stato spodestato definitivamente, ci mancherebbe altro. Palinsesto momentaneamente provvisorio, la forma dell'acqua un pochettina più lunga, quindi anche da aperitivo alle 12.38 aperitivo per voi giovani, per me già siamo già al secondo. Ma non era solo in Romagna che si mangiava alla mezza? Assolutamente sì. Anzi, in Emilia c'è una battuta di una famosa maschera che è Sganapino insieme al dottor Balanzone. Il dottor Balanzone gli diceva in continuazione: a mezzogiorno si mangia. Sganapino ovviamente aveva una fame incredibile, dice: beh, a smania anche agli 11:03, cioè si mangia anche alle 11:03, volendo uno può mangiare anche alle 11:03. Beh, si spera che c'era una sveglia molto molto precoce. Sì. La mia. La tua, esatto. La quindi se ti svegli molto presto è normale che quando è mezzogiorno mangi anche i coppi, come si dice. Assolutamente, assolutamente sì. Tornando al cinema, un brano di Richard Groove Holmes, organo Hammond B3, che abbiamo presentato in precedenza. Anche lui un grande musicista per quanto riguarda questo strumento, assolutamente pesante ma lieve volendo alle nostre orecchie. È riuscito a reinterpretare questo brano, Theme from Love Story. Dopo poi finalmente vogliamo parlare di Rudy Van Gelder. Ah, va bene. Ce lo ricordiamo. Dopo parliamo di Rudy Van Gelder, il più grande fonico di tutti i tempi. Per adesso Richard Groove Holmes. Altro che Hammond B3, qui abbiamo un suono che entra davvero nell'anima. È un suono però che è molto pulito, e questo chissà è com'è. E come mai, perché in realtà diciamo che l'ultimo aspetto fondamentale, ma non ovviamente meno importante, della Blue Note, oltre ovviamente alla musica e all'arte, alle fotografie e ai dischi, è proprio il suono. Infatti un incontro molto importante tra Wolf e Lyon fu proprio quello con Rudy Van Gelder, un tecnico del suono fantastico, che in realtà loro sentirono, in qualche modo chiesero al proprio tecnico del suono dell'epoca di cercare di imitare questa questa questa pulizia, diciamo, può essere una pulizia del suono, sì, però dopo la pulizia dei denti c'è la pulizia del suono, perfetto, esatto. E solamente che loro, il tecnico del suono della Blue Note dell'epoca, disse: guarda, io proprio non sono capace, se volete questo suono dovete chiamare lui. E loro disse: beh, perfettamente, vabbè, ciao, vai a casa, è stato bello. E infatti chiamarono proprio lui e diede un'armonia assoluta, quindi riuscì in qualche modo a inserire la potenza dei tamburi di Blackie con i ricami pianistici di Horace Silver, e creò davvero un suono perfetto. Il primo che lavorò perfettamente sulle frequenze, fra l'altro, perché il suono analogico rendeva tutto ciò molto difficile. Lui ci riuscì registrando involontariamente la caduta del suo soggiorno. Sì, è vero, non è una balla, è assolutamente vero, è riportato, noi abbiamo dei testi che riportano questa situazione. Lui casualmente stava lavorando in casa e sente dall'altra parte dell'appartamento la caduta dei pensili del soggiorno, e lui, per prova la Blue Note della sua bravura, dice: sentite com'è perfetta, sì, da una parte le forchette, dall'altra i piatti, posso dividerli e renderli perfettamente puliti, sembra che voglio fare una battuta per riuscire ad arrivare a luna. Non è assolutamente così, anche perché noi andremo avanti a oltranza, o almeno finché il nostro stomaco ce lo consente. Non è una favola, è così veramente. E quindi due produttori dissero: sei veramente perfetto per le nostre sonorità, il meglio della musica ce l'abbiamo già, il meglio della tecnica sta arrivando. E quindi il matrimonio è fatto e saranno gli anni grandi e gli anni d'oro della Blue Note. Ma infatti poi erano anche un po' ossessionati, perché è vero che lasciavano molta libertà agli artisti, però almeno dovevano fare 2 giorni di prove prima di registrare, cosa che magari altre etichette non facevano, però erano molto più rigidi su altri fronti. Però sì, almeno quei 1 o 2 giorni di prove tra il suono e gli artisti ci volevano, però si vede anche il risultato. E adesso ti presento un altro grande trombettista, un trombettista che io adoro, è stato uno dei primi che ho conosciuto, è Donald Byrd. Donald Byrd è scomparso da poco e nei primi anni 90 collaborò anche con Guru per il suo progetto Jazz Matas. Anche lui ha esplorato diversi generi, è arrivato persino nel free, ma gli anni d'oro è stato per il funky jazz, e da qui ci ascoltiamo Think Twice. Donald Byrd è già vicino al nostro periodo, già vicino agli anni 90, quando scoppiava la moda dell'acid jazz, e sì, perché nulla è stato altro che una moda, però molto positiva, perché ha potuto dare la conoscenza alle persone più giovani di quelli che sono stati i fasti del jazz. In questo caso con la mentalità Blue Note si sposa perfettamente, perché anche la Blue Note ha fatto una cosa del genere ai tempi degli anni 50 e degli anni 60, ha fatto sì che una cosa di nicchia diventasse più di portata popolare. E tornando appunto alla conoscenza dei giorni nostri, un cantante che presenterà Elisa alle 12.51. Abbiamo il fantastico Bobby McFerrin. Don't worry, be happy. Esatto, chi non lo conosce. Però non mettiamo quella. No, non mettiamo quella, che è stata appunto composta nel 1988, che è un grande anno, e lo dico così, perché non lo dico per me. È improvvisatore vocale, direttore d'orchestra, grande appassionato di musica, aveva un'estensione vocale di 4 ottave e riusciva da solo con la sua voce a fare archi, trombe, voce, percussioni, e noi ci sentiamo una fantastica By the Sea. È un live. Singing songs for you, singing songs for you, by the seaside, singing songs for you. grande capacità vocale di Bobby McFerrin. Infinita, davvero. Era anche un grande showman, era molto simpatico, infatti gli piaceva davvero interagire con il pubblico e fare qualsiasi cosa, anche infilare i microfoni nei pantaloni delle signore e continuare a cantare. Pensa un po', che simpaticone. 12:55 minuti, siamo in chiusura, noi vi diamo appuntamento a venerdì prossimo, come abbiamo detto, per il Cinemood, e faremo una colonna sonora nella colonna sonora, del resto è ancora estate. Per oggi vi salutiamo, ricordiamo gli appuntamenti di Radio Città Fujiko: uno al Centro Andrea Costa con William Piana e Elisa Iacobucci per fare la spesa in diretta dalle 16 alle 18 presso il Centro Commerciale Andrea Costa. Tutto ciò sarà sabato 21 settembre. E poi ricordo anche la Settimana dell'Ambiente. La Settimana dell'Ambiente, che comprenderà tutta la settimana di fine mese. Dal 23 al 27. Dal 23 al 27, sì. E faremo la nostra Bellezza in Bicicletta, dove parleremo di temi appunto sull'ecologia, sul verde. Sull'ecologia, sul verde, sugli stili di vita alternativi, sugli spostamenti ecosostenibili e quant'altro. Per adesso vi auguriamo un buon weekend. Un buon weekend, speriamo che il sole ci accompagni in questa ultima sbriciolata di estate. E la vostra coppia di lunghi vi dà appuntamento a venerdì prossimo con lo Special Summer all'interno della Forma dell'Acqua. Ciao a tutti, buon appetito e buon weekend da William Piana e Elisa Iacobucci, buon appetito. Watch me. Because they ready me, full ready me, nice ready me, slim ready me, shit. Cause some of them are bigger than more than them, not no old bitch. Cause me cooler than ice, cooler than they not food. Cause they want to contest their rule, why but them just can't do it. Only they want to tackle, but they want to impress. But they know that they have to call a rule, why come in life and direct. Problem. Wah da da dam da da de. Watch me. Cause some of them big, some of them small, some of them are them kinda sweet. None of them are girls, them not what they them just a look at the talk I eat. Cause they want to be nice, want to be sweet, want to be now at everywhere. Cause me say them at the top of their wrist, and they know me just don't care. Because they want to be this, want to be this, want to be know I like all that. Cause they know that the talk I use me just a will be find this spot. Get them problem. Wada da da da da da. Watch me. You come catch him live and direct. No me, all up and up. No me, 6'2". And me, come in and dance. And no me, do it for you. Cooler, cooler than ice. Nicer, nicer than breeze. Ready for the nice of an indie dance. Because you know me, do with the ease. For the man a one, for the man a two, for the man a two, for the man a three and four. Cause you know, so the talk of you be comfy. Knock on your door. But enough for the girls, them a days, them just a like homie chat. Cause I'm ready man blues, ready man blues, ready man blues, ready man down.